Purtroppo abbiamo tutti vivi nella mente i ricordi di quello che è successo quest'estate nella nostra pianura, ma anche sulle nostre montagne, la siccità del Po, un Po che abbiamo visto totalmente in secca. E già anche solo a novembre io mi ricordo le autopompe della Protezione Civile a Lizzano in Belvedere chiamate proprio per carenza d'acqua. Con questi ricordi, che sono ricordi di novembre, due mesi fa, per me è sembrato assurdo tutto il dibattito attorno ai nuovi cannoni sparaneve che sarebbero serviti per poter sparare neve anche se ci fossero stati 2-3 gradi, perché non ce lo possiamo permettere, nel senso, purtroppo non ce lo possiamo permettere oggi, ma non è un investimento che ci possiamo permettere in futuro e non è un investimento che non avrà senso in futuro. Purtroppo il cambiamento climatico esiste, è reale, è di origine antropica, ma non è colpa dei singoli, è colpa di tutti, è colpa di nessuno, ma c'è, e la politica se ne deve rendere conto. Non è possibile continuare a investire per andare a incentivare quella che è un'attività, quella sciistica, che purtroppo, cioè nessuno è felice che non ci sia più neve, che sia quasi diventato impossibile andare a sciare, però è un'attività che non sarà più sostenibile in futuro, perché se oggi, se quest'anno è nevicato pochissimo, fortunatamente è arrivata un po' di neve questo weekend, spero ne venga ancora di più, ma non sarà mai abbastanza. Se vediamo questo quest'anno, sarà sempre peggio negli anni prossimi. Chiaro, magari l'anno prossimo un pochino di più nevicherà, ma sarà sempre comunque una variazione tendente alla diminuzione, quindi non è possibile ogni anno continuare incentivare questa cosa quando consuma acqua, consuma energia. Se l'anno scorso abbiamo avuto problemi idrici, come dicevo, mi chiedo cosa succederà quest'estate, e soprattutto mi dico come è possibile andare a pensare, per andare a mettere neve su una pista con 2-3 gradi, di andare a prosciugare ancora di più le riserve idriche, perché la neve artificiale ovviamente non si crea da sola, va utilizzata l'acqua, e non va utilizzata tantissima, servono decine di milioni di litri di acqua per spargere neve su una pista, e nel momento in cui 2 mesi prima eri in emergenza idrica, secondo me questa, secondo noi e secondo comunque chiunque un attimo di logica, questa non è una soluzione sostenibile. Quindi insomma già bisognerebbe pensare a una riconversione dell'economia in Appennino. Assolutamente, questa secondo noi è proprio il concetto di transizione energetica di cui tanti parlano, però rimane un po' una parola un po' buttata lì, no? Un po' come resilienza, vabbè, è bello da dire transizione energetica, però cosa vuol dire? È proprio questo, cioè poter riuscire a passare a un altro modello economico, a portare qualcos'altro in Appennino. In Appennino ci sono un sacco di soluzioni, anche appunto per lo sviluppo turistico, che non sono soltanto lo sci, e che possono ovviamente essere integrate con lo sci, ma non possono basarsi solo e soltanto sullo sci. L'economia della montagna non può basarsi solo sullo sci, appunto per questo modello resiliente al cambiamento climatico, che propone al turista anche tante altre attività, e su questo bisogna investire. E il concetto di transizione energetica è proprio quello: investire su qualcosa che oggi non tira perché comunque c'è la neve, ma che domani sarà una delle attività principali, per permettere anche chi oggi vive sulla neve, da indotto per lo sci, dal turismo, a chi vende gli sci, ai proprietari degli impianti, per permettergli di avere un'attività economica anche in futuro, che però non si basi soltanto sulla neve. E lì servono gli investimenti, non per continuare a incentivare un'attività che purtroppo è destinata a morire. A tuo avviso la politica, anche nella nostra regione, sottovaluta la portata del problema dei cambiamenti climatici? Secondo me non è che la sottovaluti, perché la politica comunque ne è conscia dell'enorme problema che ci sarà sotto tantissimi aspetti, dal dissesto idrogeologico, abbiamo una grandissima parte della pianura padana che è destinata a tornare con un acquitino come era una volta, con l'innalzamento dei mari, abbiamo appunto il problema siccità. Non penso che però venga sottovalutata, più che altro c'è paura ad affrontarla, perché come tutte le enormi catastrofi, questo per forza, volenti o nolenti, non voglio fare catastrofista, però questo sarà una, che richiederà sacrifici a tutti e porterà un sacco di danni, come tutte le enormi catastrofi, fa paura e non si potrà combattere trovando la soluzione che non porti danni a nessuno. E con una politica che purtroppo sempre più spesso guarda soltanto alla prossima elezione, che sia l'elezione regionale, comunale o anche del candidato al segretario del PD, non si riesce a avere una politica lungimirante che pensi, aspetta, tra 20 anni però qualcuno governerà questo paese, qualcuno ci vivrà, magari noi ci vivremo, se non ci vivremo noi ci vivranno i nostri figli. Bisogna provare a amministrare con una lunga visione, questo purtroppo si sta perdendo, e per paura di oggi scontentare chi ti ha votato ieri, perché appunto se tu prendi voti sulla montagna e poi gli dici no, guarda, la tua attività non è più sostenibile, adesso proviamo a trovarti qualcos'altro, chiaramente non fa piacere a nessuno. Cioè sfido io un elettore che ti ha votato, che vive di indotto sciistico, e dirti no, sì, hai ragione, no, mia, è un'attività che non è più sostenibile. Però indipendentemente indipendentemente dai voti, così è, cioè la realtà cruda e nuda è quella. Quindi un'amministrazione lungimirante, competente, progressista, come è quella dell'Emilia Romagna, dovrebbe riuscire a trovare il coraggio di trovare soluzioni prima degli altri.